così è crudele. C'hai un gol? Una a caso della, della granuola di gol che... Attenzione, palla in mezzo, Alcantara, anche... prova lui! È sempre questo, Alcantara. Vabbè, dai, la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali è questo, è questo, è questo. L'ho trovato al volo, una pagina di intervista di Mimmo Di Marzio sul giornale alla mamma di Umberto Smaila, che compie 90 anni, ma augurissimi, augurissimi alla mamma di Umberto Smaila, questi davvero, auguri. Ma chi se ne frega!